America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Una notizia: la Camera ha approvato la riforma finanziaria, un passo in avanti importante. Dunque, a questo punto il pacchetto di legge passerà al Senato. Non si riuscirà ad approvarlo, secondo me, come voleva l'amministrazione Obama, entro domani o comunque entro i primi giorni della settimana prossima. A questo punto il Senato andrà in vacanza, c'è il grande lungo weekend del 4 di luglio, si riprenderà a votare il 12 luglio, ma di fatto il pacchetto è passato dopo un compromesso dell'ultimo istante, quando il senatore Scott Brown del Massachusetts ha chiesto l'eliminazione della tassa da 18 miliardi di dollari da applicare sulle banche per coprire una parte dei costi che deriveranno da questa riforma, per esempio nuove agenzie governative, nuovo personale e così via. Ma Wall Street ieri non era tanto preoccupata da questa riforma, che ormai è conosciuta, è un dato certo, ma è preoccupata dalle incertezze di borsa. Ieri abbiamo avuto un altro calo dell'1%, calo determinato da preoccupazioni sul fronte occupazione crescita, ormai il nodo di queste settimane, il tormentone di queste settimane. Ma l'aspetto saliente di ieri è che la borsa americana ha perso il 10%, con ieri ha perso il 10% dai massimi. Dunque siamo in una vera e propria correzione. A questo punto si tratterà di capire se ci sarà un rimbalzo, se si andrà avanti, oppure se si entrerà in una fase di stabilizzazione. Ovviamente nessuno lo sa, ma il dato sulla disoccupazione atteso per domani non promette bene. Abbiamo avuto un piccolo antipasto ieri con il dato della ADP, che è un'agenzia che paga gli americani, si occupa, pensate, di una busta paga su sei di tutti i lavoratori americani, e dunque ha un'idea ben precisa di quello che capita nel settore privato, specializzata, ripeto, nel settore privato. Ecco, ieri abbiamo saputo che il settore privato ha creato 13.000 nuovi posti di lavoro. Sapete quanti ne aspettavano gli analisti? 60.000. Dunque, diciamo, non promette bene, non promette bene con il dato di domani. Dunque borse fragili continueranno ad esserlo per un po', fino a quando non si capirà se davvero questa economia è orientata alla crescita o meno. Bene, vorrei raccontarvi un'altra storia, chiudiamo con la parte economica. Il principe Harry a New York. Thank you for being there. It's lovely to see you all. And I hand you over to Prince Harry. Harry d'Inghilterra, ovviamente terzo in linea di successione al trono britannico. Chi introduce il principe è Mark Cornell, il presidente di Moishandon America. Per che cosa? Per una partita a polo a Governor's Island. Governor's Island è una vecchia postazione, ex postazione militare del governo federale, che poi il governo ha restituito alla città di New York. Per darvi un'idea di dove si trova, è un isolotto che è dall'altra parte rispetto alla Statua della Libertà, insomma, per intenderci è subito davanti a Brooklyn, mentre invece la Statua della Libertà forse è più vicina dalla parte del New Jersey. Dunque, in una mattina caldissima, mi sono imbarcato sul ferry che partiva da Battery Park e sono andato a vedere questa partita di polo, rigorosamente di beneficenza, per gli orfani del Lesotho. Devo dire che gli americani sono eccitatissimi quando c'è un po' di royalty britannica. Thank you very much, Mark. Thank you for that. It's fantastic to be back in New York. Avete sentito il principe che ringrazia, devo dire, un ragazzo molto carino, disponibile, intelligente, brillante, ovviamente grande cavallerizzo, bello come sono un po' tutti i giocatori di polo. E sotto questo tendone bianco c'erano una serie di celebrità, per esempio Mary J. Blige, Kate Hudson, Russell Simmons, Chloe Sevigny, ma anche di intellettuali come Amanda Foreman, una ragazza inglese che sta scrivendo un libro sulla guerra civile americana. C'era naturalmente il sindaco Michael Bloomberg con Diane Taylor, la sua compagna, grandi cappelloni. Ecco, ho chiesto al sindaco se aveva mai giocato a polo, mi ha detto di no, che lui l'unico sport che gioca è il golf, e che l'unica ragione per la quale poi era venuto a questo evento è perché glielo aveva chiesto sua figlia Georgina, che è una grande cavallerizza. Dunque drink, champagne naturalmente, Veuve Clicquot della Moishandon, Veuve Clicquot era lo sponsor di questo evento, colazione al caldo, sottolineo, c'erano 35 gradi, poi la partita è colpo di scena immediato, il principe cade da cavallo, il suo pony si è imbizzarrito, Harry scivola, poi si è prontamente rimesso in sella, però la morale rassicurante per gli altri 8.000 comuni mortali che stavano nel pubblico sotto il sole, beh, anche i principi finiscono nella polvere. Ecco, la partita, devo dire, è stata piuttosto divertente. Vi racconto un po' cos'è questo polo. È lo sport sicuramente più esclusivo del mondo, perché mantenere i cavalli, portarli, avere i giocatori è carissimo e naturalmente non è uno sport che si fa per scopo di lucro. In Italia credo che lo giochino in pochissimi. È popolarissimo però in Argentina, in Brasile, da qualche tempo anche qui in America. E immaginate che funziona un po' come il calcio. Ci sono due squadre, due porte, due grandi porte, solo che sono 4 contro 4, 4 cavalli, 4 cavalieri e non c'è ovviamente un portiere, le porte sono vuote. I ruoli, il numero 1 è l'attaccante, il numero 2 è l'ala, il libero è il numero 3, il difensore arretrato numero 4. La partita, beh, contro la squadra di Harry, la Black Rock, c'era Black Watch, guidata da Nacho Figuera, modello argentino, anche lui bellissimo, come ho detto sono tutti bellissimi questi giocatori di polo. Una partita abbastanza tesa, devo dire interessante, anche a parte la caduta di cavallo del principe, si è chiusa ai supplementari, il principe ha perso 6-5. Figuera ha avuto un premio come il miglior giocatore, un orologio da $200.000 e, come si dice, ai gentiluomini lo ha prontamente messo all'asta, naturalmente per beneficenza. Insomma, può sembrare bizzarro che in tempi di crisi ci sia un evento di questo genere, così il trionfo del lusso, però devo dire che la causa non è male, perché come vi dicevo, per gli orfani del Lesotho. Come nasce questa cosa? Beh, nel 2004 il principe Harry era andato in Lesotho ospite del principe Seiso, fra così casate reali, e durante l'anno sabbatico aveva deciso che avrebbe aiutato come volontario numerosi progetti. In quella visita è nata un'amicizia e il principe ha deciso di aiutare gli orfani del Lesotho, ha prestato il suo nome, si dedica con grande passione a attività di vario genere per raccogliere fondi, il principe partecipa anche lui quando può, i fondi vanno anche a vittime della povertà e dell'AIDS. La missione della fondazione è a lungo termine, vuole creare delle piccole dinamiche organizzazioni che possano fare una differenza in queste comunità, così è nata anche la Amici Americani del Lesotho. Allora, ogni tavolo dei VIP costava $50.000, così hanno raccolto i soldi, e quasi $1.000.000 alla fine è stato raccolto. Però dietro questa beneficenza c'è una cosa che così mi ha colpito, di cui vorrei parlarvi, e c'è il business. Devo dire che i francesi sono molto più bravi di noi. Un evento glamorous è stato ripreso naturalmente dalle televisioni americane, dai giornali, è stato sponsorizzato da Veuve Clicquot, lo champagne francese che è di proprietà di LVMH. Unico token, unica consolazione, diciamo, per noi, uno dei sottosponsor era la Ferrari, che si definiva il vero pony della giornata, questo era lo slogan. Comunque, scherzi a parte, credo che qualcosa dai francesi la dobbiamo imparare in termini di, diciamo, di glamour, perché riescono a organizzare questi eventi molto molto bene. Noi abbiamo marchi altrettanto importanti, però, e qui riceverò probabilmente delle lettere contro, però abbiamo qualcosa da imparare in termini di glamour. I francesi su questo campo ci battono, e non solo in America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vorrei dedicarla al gruppo Beirut, perché il 15 luglio, anzi se vi capiterà di essere a New York per quella data, andate al Guggenheim Museum, dove appunto il 15 luglio il gruppo dei Beirut si esibirà in questo straordinario museo. Una band del New Mexico con sonorità balcaniche. Perché l'ho scelto? Beh, perché, a parte la notizia di questa loro performance, hanno fatto una canzone che non potevo non farvi ascoltare. Postcards from Italy, cartoline dall'Italia. The times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. We put our features where they had to go, never to go.